Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è nella Swing in London. È il 1964 e accanto all'Inghilterra tradizionale, in completo grigio e in bombetta, appare un'Inghilterra più audace, più moderna. Proprio qui, dall'intuizione di una stilista, nasce l'indumento più rivoluzionario di tutti i tempi e con esso nasce la prima top model. La storia di oggi comincia a Carnaby Street, per poi attraversare tutte le strade più o meno famose del mondo, in un piccolo negozio di abbigliamento di una giovane designer che prende spunto dalla strada per disegnare le sue collezioni. Stiamo parlando di Mary Quant. Mary Quant. Ma per capire meglio quali siano i germi che dalla capitale inglese e precisamente da quel vicolo fino ad allora sconosciuto nel centro si diffondono ovunque, dobbiamo fare un passo indietro. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Già a metà degli anni 50 si respira aria di rivoluzione nel costume. I giovani sentono di dover mettere della distanza tra la loro generazione e quella dei loro padri. La musica e l'abbigliamento sembrano essere il mezzo più incisivo per far sentire la loro voce. L'uscita del film The Blackboard Jungle nel 1956 con la colonna sonora di Rock Around the Clock e la scena emblematica dove gli studenti distruggono la collezione di dischi jazz al loro professore segna l'inizio di un profondo cambiamento che gli anni 60 accoglieranno in pieno. I ragazzi si riuniscono in bande, come suggerisce sempre l'iconografia hollywoodiana del selvaggio o di gioventù bruciata. La motocicletta, il prodotto su cui si basa la riconversione industriale post-bellica, è la nuova frontiera di libertà. A Londra, due sono i gruppi che si fronteggiano sulla scena urbana come in una sceneggiata sociale degna di un film: i rocker e i mod. I primi con la loro fama di rozzi e violenti, gli altri ben vestiti, quasi rispettabili. Oltre alle diversità ideologiche, i due gruppi si distinguono anche per le vedute sull'eleganza, sul modo di comportarsi in pubblico, sui locali da frequentare e non ultimo sui gusti musicali. I rocker considerano i mod dei fighetti effeminati, mentre i mod vedono i rocker degli untuosi fuori moda. L'abito è certamente uno dei mezzi per urlare al mondo la propria differenza e stabilire i confini dell'appartenenza o meno a un certo modo di essere, di pensare. Siamo a Clacton, un bellissimo weekend di vacanza. C'è solo una preoccupazione, che mods e rockers si combattano ancora in città. La polizia è pronta stavolta, non ha voglia di farsi cogliere ancora impreparata. Nel 1964 il clima tra le due bande rivali si inasprisce e scoppia una rissa a Clacton, località balneare a sud di Londra. I media ne amplificano la portata, mobilitando numerosi mod e rocker, anche nei fine settimana successivi. La polizia interviene pesantemente con l'arresto di 97 persone. Sono gli anni dove lo stile, e nella fattispecie la modernità, dato essenziale del gusto, vuole imporsi sulla scena anche in maniera violenta. Dopo 10 anni ho rivisto l'amico Bob, con una giacca di cuoio con scritto su. Giorno per giorno io vivo, io sono un bot. Era firmato da Bob, uno dei mod. Mod è abbreviativo di modern. Mary Quant, sensibile a quanto avviene intorno a lei, dopo i disordini di Clacton, sente che è giunto il momento di dare alla luce la sua intuizione più moderna. Sono gli anni 60 e il boom economico riempie le case di oggetti e la vita di nuove opportunità. Cambiare è la parola d'ordine. I mods sembrano voler accelerare questa frenesia nel rinnovamento attraverso la loro ossessione per l'eleganza. L'Italian look va per la maggiore, quello dei film di Fellini, di Dino Risi, di Antonioni, che proprio in quegli anni esce con Blow Up, dove un fotografo di moda diventa star. Good, that's great. Yes, that's great. That's good, that's good. Yes, go on, not again, not again, not again. Oh, hold that, hold the hair, again. Good. I negozi offrono però solo moda tradizionale. I mods devono ricorrere a sartorie dove farsi confezionare abiti particolari. E a Carnaby Street si trovano le più economiche e bizzarre, proprio dove Mary si muove abitualmente. Per spostarsi da un club all'altro, i mods utilizzano le eleganti lambrette al posto delle roboanti motociclette, che oltre ad essere più comode, proteggono gli abiti da schizzi di fango e non sporcano d'olio. I vestiti sono sempre il primo pensiero. Anche i capelli sono importanti, taglio corto in ordine, ma non militare come quello consigliato dalle autorità scolastiche. Niente brillantina, ma semplici e puliti. La continua ricerca della vita pulsante della città, nei club, ai concerti, si esprime per i mods nel ballo, il momento di massima vitalità della giornata. Uno dei primi balli tipici del mod è lo shake. Per seguire il fenomeno di questi giovani tra musica, balli e stile di abbigliamento, fenomeno che sta diventando anche commerciale, la TV comincia a trasmettere programmi dedicati interamente a loro. Uno in particolare, che si può definire un mods show, è il Ready Steady Go, prodotto dalla ITV, una sorta di secondo canale inglese. La trasmissione è strategicamente collocata all'inizio del fine settimana, poco dopo le 6, per farla coincidere con il rientro al lavoro, in attesa di prepararsi per la serata. Ad ogni trasmissione vengono presentati nuovi dischi, nuovi balli e le innovazioni della moda. Qui si trasmette non la solita robaccia, ma musica dei complessi inglesi più amati, gli Who, gli Stones, gli Animals, e molta musica americana, Otis Redding, James Brown, Ike e Tina Turner. In una scenografia particolare, i complessi fanno il loro numero in diretta e un numero di mods scelto nei migliori club di Londra viene invitato in studio per ballare dal vivo. Questo show televisivo diventa il prototipo per altre trasmissioni del genere in Europa, come Bandiera Gialla alla radio italiana. La trasmissione diventa il maggior mezzo di diffusione dei nuovi atteggiamenti moderni. La stessa sigla iniziale, che abbiamo sentito prima, cambia ogni 6 mesi. La più famosa è certamente Anyway, Anyhow, Anywhere degli Who. Nelle loro parole, lo spirito del movimento. Contribuiscono alla creazione di un nuovo mercato che si presta a meraviglia all'incremento dei consumi di massa, quello giovanile. Carnaby Street diventa un luogo mitico. La stampa comincia a interessarsi di moda, musica, balli e altre passioni giovanili. In un certo senso i mod fanno da laboratorio pubblico per l'elaborazione dell'immagine dell'epoca. Allo stesso modo, il giovane diventa il consumatore tipo. That Was the Week That Was è un altro programma inglese che in quegli anni va in onda sulla BBC e viene visto dalla metà del Regno Unito. In questo caso non solo dai giovani, ma anche dalle famiglie. Sono ancora tempi non sospetti. Mary non ha ancora lanciato la sua nuova linea di abiti, ma in alcune puntate dello show una modella che fa la valletta indossa un abito dalla strana lunghezza. La cintura le permette di accorciare e allungare la gonna a piacere, il che fa ridere tutta l'Inghilterra. In realtà è solo l'inizio di una rivoluzione che la nostra protagonista sta per presentare al mondo. La Londra di quegli anni è certamente il luogo ideale per farsi venire delle idee in termini di innovazione nell'abbigliamento. Nel 55, quando scoppia la mania di Rock Around the Clock e si prepara il clima per la rivincita delle nuove generazioni degli anni 60, Mary Quant ha 21 anni, un diploma al Goldsmith College of Art e tanta spregiudicatezza. È una giovane modella stilista nel pieno della rinascita della moda femminile, dopo la dolorosa parentesi della guerra, e decide di aprire la boutique Bazaar a Londra, in King's Road. disegna, produce abiti impropri, graziosi, divertenti e a basso costo. E in poco tempo diventa il punto di riferimento della moda giovane della swing in London. Lei forse ancora non sa che il suo nome farà il giro del mondo e rimarrà tra gli indimenticabili della storia della moda. È perfettamente in sincronia con quello che le gira intorno. Lei stessa, con la sua giovane età, è la prima rappresentante di ciò che vende. Scrive di lei il giornale Sunday Times. A pochi viene dato il privilegio di nascere nel momento giusto, nel posto giusto e con il giusto talento. Tra questi fortunati c'è Mary Quant. Tutto questo perché nel 1964 Mary Quant lancia la minigonna sul mercato. La sua moda è rivoluzionaria. Le adolescenti trovano nei suoi capi la forza di ribellarsi all'ingerenza della generazione perbenista che le ha precedute, fatta di tabù e di restrizioni. I bravi stilisti sanno che per essere influenti devono seguire ciò che accade nelle strade e fiutare l'aria. Io ho cominciato proprio quando nell'aria qualcosa stava per accadere. Ho creato abiti che si adattassero perfettamente al momento, fatto di dischi pop, caffè e jazz. Si descrive così Mary Quant al Sunday Times. L'ispirazione le viene dalla strada, dalla TV, che spesso si sostituisce alla strada come spazio di elaborazione delle idee, dalla pop art, che oltreoceano sta dando i suoi segnali, dai primi trionfi dell'era spaziale, come annuncia un TG dell'epoca in un servizio dedicato a lei. La nuova linea prende ispirazione dallo spazio. Ci sono tagli innovativi, materiali futuristici. È la linea che le donne seguiranno probabilmente nel 2000, adatta per andare sulla Luna, su Marte, ma adatta anche qui sulla Terra, nella mente di Mary Quant. Le creazioni adesso sono tutte più colorate, più eccessive, più eccitanti delle precedenti. La vera novità è il concetto di moda adattata alla quotidianità che nessuno stilista fino ad allora ha considerato. E la quotidianità è cosa di tutti, senza distinzioni di classi sociali, come dice ai giornali dell'epoca la stessa stilista. Quello che mi dà più soddisfazione è che le mie creazioni trovino spazio tanto negli armadi dei giovani del ceto medio, quanto nei guardaroba di lusso delle signore bene. Non esiste più la differenza di classi, non più binomio tra moda e snobismo. La mini è l'incarnazione ideale della democrazia. L'idea di accorciare di qualche centimetro la gonna le viene una sera che si trova con gli amici in un pub a Londra, il Savoy. Tutto intorno a lei sta già andando in quella direzione, ma lei riesce prima di altri a cogliere la portata rivoluzionaria di una gonna corta. Si accorge che le ragazze fanno fatica a muoversi come vorrebbero per seguire le note della nuova musica che impazza in ogni club. L'abito è una specie di vecchia pelle, una sorta di carapace che le donne devono abbandonare per poter mostrare la loro nuova sostanza e vivere appieno la loro trasformazione. Il cambiamento dentro è già avvenuto. C'è solo bisogno che qualcuno lo renda palese anche fuori. E Mary Quant è la persona giusta al momento giusto, come ha detto il giornalista del Sunday Times. Il suo destino si nasconde tra le pieghe di Londra, nei locali frequentati da giovani come lei, per la strada che lei attraversa ogni giorno e nel suo lavoro di disegnatrice di moda. È già tutto scritto. La sua audacia fa il resto e l'incontro con l'altra protagonista di oggi farà da volano. Qualcuno sostiene che la maternità della minigonna spetti a Ellen Rose, che nel lontano 1956 ideò gli abiti per l'attrice Anne Francis nel film Il pianeta proibito, una trasposizione in chiave fantascientifica della tempesta di Shakespeare. La realtà è che con Mary Quant e il lancio della minigonna, a volte è la Terra a diventare un pianeta proibito per molte donne che decidono di indossarla. I tempi sono maturi, è vero, anche se non dappertutto. Quei 25 centimetri di stoffa che finiscono sopra il ginocchio sono la conquista di una libertà che non è solo della moda, ma anche del costume. Proprio per questo non è così immediata l'accettazione da parte di tutti. Per molti le gonne troppo corte vanno di pari passo con la sfacciataggine e la bassezza morale. Questo accade soprattutto lontano dalla capitale inglese. Celebre la frase di un indulgente Paolo VI a Claudia Cardinale che si presenta all'udienza papale con un abitino nero che finisce 20 centimetri sopra il ginocchio. Usi bene i suoi talenti, signorina. O il ministro dell'interno greco, il generale Patakos, che dopo il colpo di Stato ordina niente minigonne, niente capelli lunghi e niente biliardini. In Cina il giornale del popolo definisce la minigonna simbolo del revisionismo borghese e tipica dei regimi corrotti. mentre in Russia la Pravda scrive: «Se le gambe scoperte sono belle, le minigonne possono essere politicamente accettabili». Insomma, sono passati 25 anni dalla canzone di Enzo Aita e del trio Lescano. Le gambe vincono ancora sul resto del corpo, ma mostrarle in pubblico per molti è tabù. Aver inventato la minigonna è sicuramente segno di grande lungimiranza e sintonia coi tempi che si vivono. La minigonna è un passaggio storico verso l'emancipazione sessuale, ma anche verso un nuovo modo di concepire il mondo. Da un lato c'è il rapporto fra i sessi, dall'altro si introduce una concezione asessuata del proprio rapporto con il mondo, con la società. Il tutto non senza passare attraverso uno strappo generazionale fortissimo, nel quale la minigonna è solo uno dei tanti motivi di conflitto, accanto a capelli lunghi, alle comuni, all'LSD, al rock and roll. Mary Quant ne è consapevole. Uno stilista francese, André Courrèges, creatore del minimal chic e del geometrico, rivendica fin d'allora il copyright della minigonna. Mary sa che non ci sono veri inventori, ma solo buoni osservatori. E lei è una di questi. Quando il giornalista del Sunday Times le chiederà un commento al riguardo, risponderà: «Si sa come sono i francesi, non vi bado più di tanto. Comunque le vere creatrici della mini sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada». Non ci vuole molto a rendere planetario il successo. La strada ha già accolto lo spunto e ha già dato lo stimolo alla creatività di Mary. Ora si tratta di formalizzarlo. Un pizzico di fortuna, la lettura puntuale dei tempi, il coraggio di osare e la scelta della giusta testimonial fanno il resto. Non si tratta solo di far vedere le gambe, ma anche di far vedere attraverso di esse un nuovo concetto di femminilità, lontano dalle donne tutte curve che vanno per la maggiore e che parlano al mondo il linguaggio della sensualità ostentata. Il punto di vista si sposta dal décolleté al ginocchio, alla caviglia, alla gamba in genere. Con la minigonna, la rivoluzione arriva anche per altri capi d'abbigliamento, come gli stivali, la biancheria intima più esposta, che quindi diventa pantaloncino, e soprattutto i collant. La responsabilità della minigonna è infinita e le responsabilità di Mary Quant sono altrettanto infinite. Comunque sia andata sull'invenzione o meno del capo più rivoluzionario del pianeta, a Mary va dato atto di averla trasformata in un fenomeno di massa. Complice di questo successo anche la scelta della modella per il lancio, Leslie Hornby, una ragazza di soli 16 anni che da quel 1964 diventerà per tutti un'icona non solo inglese ma mondiale, cambiando decisamente il suo destino. I've just seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just the girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. Destini incrociati. Destini incrociati in Inghilterra. È il 1964. La Swing in London è pronta per accogliere l'invenzione più rivoluzionaria di tutti i tempi nel campo della moda, la minigonna. A Carnaby Street, una giovane designer decide di lanciare la sua nuova collezione, dove compare per la prima volta una gonna vertiginosamente corta, e sceglie come testimonial una ragazza di soli 16 anni, che da quel momento cambierà la sua vita. Mary Quant ha deciso. La strada le parla la lingua dell'innovazione. La TV le rimanda immagini dove i Mods, il gruppo di giovani più alla moda di Londra, incarnano un nuovo stile, fatto di linee semplici, eleganti, circondati sempre di ragazze dall'aria androgina, lontane dall'idea di bellezza delle dive anni 50. Per lanciare la sua minigonna, il cui nome deriva dal nome della sua macchina preferita, la Mini, decide di affidarsi a una ragazza notata per caso in un negozio. Si chiama Leslie Hornby. Fa la parrucchiera nel salone della sorella a Nisden, nella zona nord-est di Londra, ma coltiva segretamente il sogno di entrare nella moda. Lavoravo nel negozio di mia sorella. Lavavo capelli, li asciugavo, facevo le unghie. Insomma, avevo un lavoretto e potevo guadagnarmi qualcosa per poi correre a comprarmi dei vestiti. Avrei voluto fare la modella. Si cuce spesso da sola i vestiti che poi sfoggia la sera al club con gli amici. Questo perché, oltre a trovare poco di quello che le piace in giro, il suo fisico è davvero troppo esile per imbattersi in abiti della sua taglia. Come tutte le ragazze del periodo che frequentano l'ambiente mod, anche lei ama truccarsi pesantemente gli occhi. I suoi occhi sono occhi di cerbiatto. La giovane età aiuta a farli sembrare indifesi e trasparenti. Sono grandi, con lunghe ciglia nere sottolineate dalla matita altrettanto nera. Leslie ci mette sempre più di un'ora al mattino prima di uscire. Lo sguardo è quanto di più prezioso sente di avere e truccarsi è un rito importantissimo. È fidanzata con un fotografo, Justin de Villeneuve, il cui fratello decide un giorno di chiamarla per scherzo Stecchino. Twiggy. Il soprannome è così preciso nel descrivere la sua essenza che da allora diventa il suo secondo nome. Quando Mary per caso la vede, pensa che sia perfetta per indossare la sua mini e alla richiesta di farle da testimonial, Twiggy dice subito sì. Lei è la ragazza della strada. Secondo Mary, è il simbolo di tutte le ragazze che l'hanno ispirata. È una delle vere creatrici della minigonna, al di là delle diatribe tra Francia e Inghilterra. A Twiggy, dal canto suo, non sembra vero che qualcuno la voglia come rappresentante non solo di una linea di moda, ma di un lancio che ha fatto la storia. Quando insieme vanno dal fotografo per il servizio che dovrà poi apparire sulle riviste, l'editore della rivista ha delle perplessità sulla ragazza. Quando l'editore mi vede, mi dice: «Sei troppo magra, non sono sicuro che tu possa fare la modella, ma hai certamente una faccia interessante». Io mi disegnavo gli occhi da sola, non c'erano make-up artist all'epoca, io passavo anche 3 ore a truccarmi gli occhi. Avevo i capelli lunghi. La prima cosa che fa è portarmi da un parrucchiere. E così nasce quel taglio che mi ha caratterizzata per tanto tempo. Per Twiggy è cominciata l'ascesa. Mary Quant è il suo trampolino, la minigonna è la sua mascotte, il suo portafortuna. Qualche aggiustamento, capelli in ordine, trucco più definito e Twiggy diventa in pochissimo tempo una top model. Il suo volto incanta il mondo. Un fenomeno planetario che nella seconda metà degli anni 60 conquista le pagine dei rotocalchi e dall'uscita del primo servizio diviene in poco più di 24 ore il modello da imitare per milioni di ragazzine. Le modelle prima d'allora erano solo ragazze bene in cerca di marito. Con Twiggy le cose cambiano. Tutto inizia come in una fiaba moderna. Una ragazza con un background proletario, un accento terrificante tipico dei quartieri dell'East End e un fisico minuto ed esile. Eppure, proprio questo fisico così androgino, insolito, perfetto per indossare l'indumento più rivoluzionario, la porta dritta al successo e alla fama internazionale. A fotografarla per primo, un famoso fotografo sudamericano, Barry Lategan, che lavora per Vogue ed Elle. La prima volta che vidi Twiggy pensai che non avesse niente della modella. Era troppo giovane, troppo magra e troppo bassa rispetto alle modelle dell'epoca, che erano tutte curve. Eppure proprio la sua flessuosità, la sua mancanza di curve e la sua spontaneità nello stare davanti all'obiettivo, divertendosi come una bambina, la fanno decollare. Ormai Twiggy è partita. In pochi giorni diventa semplicemente l'emblema di un'intera epoca, di quella swing in London, allora nuovo e fantasmagorico ombelico del mondo. Mary Quant ha solo dato il via a un destino inevitabile. È la Londra modaiola della musica rock, quella che attorni all'immagine di Twiggy. Lei è un'immagine leggera e accattivante, che nulla ha a che vedere con il polveroso passato del paese. La sua famiglia la sostiene, lei così giovane, la prima modella teenager della storia, come ricorda la madre. È stato molto emozionante vedere la sua faccia sui giornali di moda. Lei voleva fare la modella e vedere che ce l'aveva fatta era bello per lei. Qualcosa è cambiato, non solo nel modo di vestire, ma anche nel modo di pensare. La libertà di una trasformazione per le donne sembra passare anche attraverso quel viso. In Inghilterra, Mary Quant lancia la minigonna e in anticipo sui figli dei fiori esce con una linea di cosmetici il cui logo è un fiorellino. Peace and Love. In quell'anno, Martin Luther King vince il Nobel per la pace. I accept the Nobel Prize for Peace. At a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. La pace, i colori, la libertà sono tutti concetti che emozionano il mondo intero. La minigonna fa da spartiacque e Twiggy è ambasciatrice di qua e di là dell'Atlantico di un nuovo modo di pensare. I suoi occhi sono quelli di una generazione che si affaccia alla vita. L'Inghilterra di Twiggy e di Mary Quant è in quegli stessi anni anche quella dell'Oscar a Julie Andrews per Mary Poppins. Cono, foto di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù. La governante inglese più famosa, che veste con lunghe gonne e porta il mondo in una borsa. Strano come la stessa patria possa offrire al mondo due immagini tanto differenti. Ma la Gran Bretagna è anche questo. Il massimo della contraddizione, dove convivono il vecchio e il nuovo senza problemi. A royal reception for Britain's top mini model, whose professional name is Twiggy. Nel 1967 Twiggy parte per New York. È il suo primo viaggio in America, ma ormai la sua fama è internazionale. Comincia la Twiggy Mania. Quando siamo arrivati a New York, io non immaginavo di essere così famosa. Avevo avuto qualche copertina sulle riviste, ma quando siamo scesi dall'aereo e ho visto una folla di fotografi ad aspettarmi, mi sono spaventata. Mi hanno dato una guardia del corpo. Io così piccola in mezzo a quella folla, che impressione. Avevo dei fan e tutti avevano una maschera con la mia faccia. Che spettacolo. Al suo fianco sempre Justin de Villeneuve, fidanzato e manager, che appena sbarcato nella Grande Mela organizza di girare un documentario sul suo arrivo a New York. Fissa così una serie di interviste e incontri che Twiggy, con l'ingenuità e la spregiudicatezza dei suoi 18 anni, decide di fare senza troppe domande. Devo fare delle riprese e incontrare della gente. Tra questi, mi dicono, c'è anche un giovane attore, comico, intelligente, che si chiama Woody Allen. Organizzano l'appuntamento e una volta nello studio mi mortifica subito con una domanda. L'intervista prosegue su questo tono. Woody la incalza. Vuole sapere almeno il nome di un filosofo che le piace, la stuzzica. Dai, almeno uno, greco, tedesco, chi vuoi tu? Ma Twiggy si sente morire di vergogna. Lei non conosce nessun filosofo. Woody Allen è uno dei pochi che all'epoca sottostima la portata del fenomeno Twiggy. Il mondo però vuole la sua innocenza, la sua giovane età e la sua leggerezza. La rivista People scrive di lei: è forse la prima modella ad avere un eco tale da creare un commercio di massa intorno a tutto ciò che la riguarda, dalle bambole ai cosmetici. Si può certamente affermare che sia l'artefice del collegamento virtuale modaiolo tra le due sponde dell'Atlantico. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Destini incrociati. A Destini Incrociati si parla di gambe, di occhi, di gonne corte, di carriere lunghe, anatomia della moda e del costume degli anni 60. Siamo nella Swing in London e dall'intuizione di Mary Quant nasce la minigonna. Una giovanissima parrucchiera dal corpo esile e dagli occhi da cerbiatto viene scelta come testimonial dando inizio alla sua carriera da top model, trasformandola in un'icona di un'epoca. Con la minigonna nasce anche Twiggy. Da quel 1964 e dall'incontro con Mary Quant le cose sono molto cambiate per Leslie Hornby, che ormai per tutti è solo Twiggy. Quattro copertine su Vogue, nominata dal Daily Express volto dell'anno 1966 e più di recente, nel giugno del 1999, la rivista Time la include tra le più belle star del XX secolo. L'arrivo in America, spinta dal successo avuto in patria dopo il lancio della minigonna, le apre le porte del cinema, della musica, insomma di una vita artistica che non si ferma alle passerelle. I fotografi più quotati la vogliono fotografare. È il nuovo ideale di corpo. Anche se il Newsweek la descrive maliziosamente come quattro arti verticali in cerca di un corpo femminile. Lei rimane la nuova frontiera da esplorare per gli obiettivi più famosi. David Bailey, il fotografo che ispirò Antonioni per Blow Up, le fa il ritratto che le vale il premio di volto dell'anno. Richard Avedon, le cui foto di Twiggy sono esposte alla National Portrait Gallery di Londra, la descrive così in un'intervista al Sunday Times. Quando è davanti alla luce del flash riesce a riflettere all'obiettivo l'immagine della sua generazione. Da quel lontano 64 comincia per Twiggy una carriera folgorante che le apre presto le porte del cinema e della musica. David Bowie la vuole per la copertina di un suo disco. Nel 1971 Ken Russell, geniale e visionario regista inglese, la vuole invece per il suo musical cinematografico The Boyfriend, rifacimento di un grande successo a teatro per cui Twiggy ottiene addirittura 2 Golden Globe. Mia moglie un giorno stava leggendo Vogue e mi dice: oh, guarda questa modella, sembra speciale. Ho guardato e ho pensato anch'io, è davvero speciale. Così l'ho voluta per Boyfriend. Qualche anno dopo Boyfriend, calca le scene di Broadway con il musical My One and Only, un successo che per mesi tiene banco al botteghino. Una carriera inarrestabile, luminosa. Il musical Boyfriend è lo stesso che porta in scena nel 54 a Broadway per la prima volta anche Julie Andrews, l'altra faccia dell'Inghilterra di quegli anni, come già visto, con gli abiti castigati della sua Mary Poppins. Bellissimo e toccante anche il ruolo di Eliza Doolittle nel Pigmalione accanto a Robert Powell. Insomma, il successo è arrivato. La sua versatilità, la sua capacità di imparare ogni cosa, la portano a sperimentare ogni genere di ruolo. Fare l'attrice le piace e le riesce bene. Da quel 1971, con Ken Russell, decide di abbandonare la carriera da modella per dedicarsi solo al teatro, al cinema e alla musica. Altre attrici, come Angelica Houston, per esempio, arrivano dal mondo della moda per essere poi adottate in pieno dal cinema. Nel 1976 Twiggy incide 2 album per l'etichetta Mercury, uno dei quali diventa anche disco d'argento nel Regno Unito. It is of course Twiggy on top of the pops and the latest sound. Here I go again. Passata l'era della swing in London e del cinema, Twiggy ricorda la sua prima professione e così si reinventa come modella a partire dal 2005, quando diventa uno dei volti di Marks & Spencer, come cinquantenne in gran forma, con una campagna che ha un successo senza precedenti, risollevando le finanze disastrate dello store inglese. Lo stesso anno, il pubblico la ritrova in TV, come giudice del concorso America's Next Top Model. Oggi Twiggy è popolarissima come sempre, ma non si sente un modello per le donne della sua età, come dice in un'intervista al Sunday Mirror. Sono grassa da 10 anni in qua, per colpa di un allargamento di mezza età. Vorrei pesare 7 kg di meno, ma mi piace troppo mangiare, anche se mangio cose sane, mai fritte, e sono sposata con una persona che non ama i dessert. Al massimo mi mangio una barretta di cioccolato quando proprio mi viene voglia. È inossidabile. Il segreto di tanta longevità è anche il suo atteggiamento, come dice lei stessa al Sunday Times. Alcune modelle appaiono minacciose alle altre donne e le donne trovano difficile identificarsi con loro. Non credo che questo sia il mio caso, altrimenti la mia carriera sarebbe durata solo 4 settimane, invece è durata 40 anni. Mary Quant, nel frattempo, si gode la sua meritata fama mondiale. Ha influito pesantemente sulla storia del costume e del mondo intero, tanto da diventare termine di paragone per qualunque genere di innovazione. La moda continua a innovare. Nel 67 Yves Saint Laurent lancia il nude look, Paco Rabanne firma i suoi micro abiti in metallo e in occasione della sfilata di Dior, che presenta ancora abiti castigati dal taglio elegante ma tradizionale, una folla di studentesse inglesi armate di minigonna sfila per le vie di Londra a rivendicare la libertà di espressione del corpo. L'influenza di Mary Quant e della sua invenzione è indiscutibile. È la minigonna, l'indumento più amato di tutti i tempi, almeno secondo i 3.500 inglesi interpellati nel sondaggio della catena britannica di grandi magazzini Harvey Nichols nel 2003. Nella classifica dei must dell'abbigliamento figurano al secondo posto i jeans e in terza posizione il cosiddetto vestitino nero, passepartout per tutte le occasioni, lanciato nel 1926 da Coco Chanel. L'Inghilterra conosce la potenza di Mary Quant e non perde occasione per ricordarlo. Nel 66 riceve dalle mani della regina Elisabetta l'onorificenza di cavaliere della corona britannica, che l'anno prima era stato dato ai suoi idoli, i Beatles. Per salutare l'arrivo del nuovo millennio, la regina decide di invitare 350 persone scelte tra 11.000 nominativi che siano state influenti per la storia del Regno Unito. Tra queste, ovviamente, non può mancare lei, Mary Quant. Lei è un po' come la cabina rossa del telefono, il bus a due piani, la metropolitana per Londra. È un monumento nazionale. Nel 2009 la Royal Mail decide di dedicarle un francobollo. Sono molto emozionata di essere stata scelta dalla Royal Mail. La cosa straordinaria di questo paese è che produciamo quello che siamo. Amiamo lo stile e facciamo moda. Siamo pop e facciamo musica. Per poi spedire le nostre invenzioni in tutto il mondo. La rivoluzione degli anni 60, sia per la musica che per la moda, arriva certamente dall'Inghilterra, come ricorda Mary. La British Invasion colpisce vecchio e nuovo continente e la minigonna, al pari dei Beatles, è una pietra miliare. E pensare che tutto è nato dall'incontro tra una ragazza e qualche centimetro di stoffa. Erano mille, ma i rockers in più, erano forti, più forti dei Mods. Contro di noi, vidi qualcuno cadere da eroe, poi vidi Mary lontano da me, venni colpito, la testa girò. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.